11. Ascolta e controlla. 1. Cenano a casa. 2. Sono in ritardo tutte le sere perché c'è sempre traffico. 3. Vendo il computer a Giorgio. 4. Sbagliano l'esercizio perché non stanno attenti. 5. Non hanno voglia di stare a casa, preferiscono fare quattro passi e guardare le vetrine. 6. Ragazzi, per favore, dovete restare in silenzio. 7. Perché non vanno in vacanza? 8. Quando ricevi i risultati dell'esame?